Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Proseguono il calo delle nascite e quello dei residenti in Italia per il secondo anno, meno di 500.000 di bambini venuti alla luce, siamo poco più di 60 milioni e mezzo. Raggi scrive al prefetto, basta immigrati a Roma, moratoria sugli arrivi, a Roma si cambia musica, scrive Grillo, basta chi chiede l'elemosina in metro. Renzi, non ho mai parlato di voto anticipato, si va alle urne nel 2018, i 5 Stelle sono stati sconfitti per il segretario PD ma non sono morti. Vaccini, la Regione Veneto presenta ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto legge che impone l'obbligo, la coercizione crea abbandono, dice Zaia. Soluzione vicina per le banche venete, fa sapere il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, no al bail-in, garantiti obbligazionisti senior e depositanti. Basket per l'NBA, secondo titolo in 3 anni per i Golden State Warriors, in 5 gare battuta Cleveland, alla quale non bastano i 41 punti di LeBron James. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale come sempre andiamo in diretta video e se volete potete commentare anche là, ovviamente vi leggiamo. Tra gli altri argomenti che tratteremo nel corso di questa trasmissione ci sarà naturalmente la vicenda di Napoli e quello che è successo, le immagini le abbiamo viste tutti, quelle della paziente ricoperta da formiche e semi abbandonata mentre appunto era degente in un ospedale. Ascolteremo la voce del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e poi parleremo anche di chi aveva davvero la responsabilità di questa paziente, non solamente il Ministero della Sanità sotto accusa per i tagli eccetera eccetera, ma anche chi se ne doveva effettivamente prendere cura. In apertura però parliamo del bilancio demografico dell'Istat. Via. 60.589.445 le persone residenti in Italia nel 2016. Tra loro più di 5 milioni di cittadini stranieri. Per il secondo anno di seguito si registra dunque una diminuzione dei residenti. A determinare il saldo negativo, la flessione del numero di italiani, mentre la popolazione straniera è aumentata di 20.870 unità, anche se per la prima volta dagli anni 90 cala il numero delle donne. Continua dal 2008 il calo delle nascite degli italiani. Per il secondo anno di fila i nuovi nati sono stati meno di 500.000, di cui più di 69.000 stranieri, anch'essi in calo. Al costante calo delle nascite nel 2016 si è affiancata una riduzione del numero dei decessi, particolarmente elevati nel 2015. Continuano a crescere infine le acquisizioni di cittadinanza. Nel 2016 i nuovi italiani sono stati più di 200.000, circa 200 le nazionalità presenti in Italia. Nella metà dei casi si tratta di cittadini europei. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo è il quadro dal bilancio demografico. Per quanto riguarda, avete sentito anche nel servizio di Katia Caramelli, si parlava dei cittadini stranieri in Italia. Oggi ci sono da registrare le dichiarazioni della sindaca di Roma, Virginia Raggi, seguite da un post molto duro di Beppe Grillo. Facciamo un punto con Teresa Trillò. Teresa, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sì, allora, secondo Virginia Raggi è necessaria una moratoria sui nuovi arrivi di migranti a Roma e Virginia Raggi questo lo chiede in una lettera che ha inviato al prefetto di Roma, Paola Baliesone. Vista la forte presenza migratoria e il continuo flusso di cittadini stranieri, scrive Raggi, trovo impossibile, oltre che rischioso, ipotizzare ulteriori strutture di accoglienza, peraltro di rilevante impatto e consistenza numerica sul territorio comunale. E sul blog di Beppe Grillo, un post firmato dal Movimento 5 Stelle commenta: ora a Roma si cambia musica. Chiusura dei campi rom, censimento di tutte le aree abusive e le tendopoli, chi si dichiara senza reddito e gira con auto di lusso è fuori, chi chiede soldi in metropolitana magari con minorenni al seguito è fuori. In più sarà aumentata la vigilanza nelle metro contro i borseggiatori. Ricordiamo che oggi intanto in Campi d'Oglio sono giorni cruciali per lo stadio della Roma. Ieri infatti l'Assemblea Capitolina ha iniziato l'esame della delibera sulla pubblica utilità del progetto del nuovo impianto giallorosso a Tordivalle e le votazioni dovrebbero terminare domani. Per il momento da Roma è tutto. Grazie dunque a Teresa Trillò per questo aggiornamento. Visto che stiamo parlando appunto di immigrati e di stranieri, ci sono i dati di questa mattina dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che indicano che dall'inizio dell'anno un totale di 73.000 migranti e rifugiati sono arrivati via mare in Europa, 1.800 sono morti mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo. Mentre è atteso per oggi il via libera alla procedura di infrazione per la questione dei ricollocamenti. Un punto con la nostra Valentina Furlanetto che studio con me. Valentina. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Come dicevi, si va verso l'apertura della procedura di infrazione per l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica Ceca sui mancati ricollocamenti dei profughi da Italia e Grecia. Lo ricorderete, c'era un accordo in seno all'Unione Europea per ricollocare i migranti dal nostro paese e dalla Grecia. In realtà l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica Ceca si sono rifiutate di farlo. Il 16 maggio Bruxelles aveva lanciato l'ultimatum ai paesi che non ricollocano, avvertendo che in occasione di questa relazione sullo stato di attuazione delle relocation, se non ci fossero stati dei progressi, non avrebbe esitato ad esprimersi a favore dell'apertura della procedura di infrazione, e così probabilmente sarà. Siamo andati a vedere la Commissione minaccia praticamente di togliere i fondi a questi paesi, no? Fondi strutturali. Siamo andati a vedere quanto in realtà ne beneficiano questi tre paesi. Dei 300 miliardi che vanno in fondi strutturali del bilancio 2014-2020 ai paesi dell'Unione, tra i primi beneficiari ci sono proprio questi tre paesi. La Polonia, ad esempio, ha registrato un saldo attivo di 13 miliardi nel rapporto tra dare e avere con Bruxelles, ed è il 3,47% del prodotto interno lordo, col quale Varsavia tra l'altro sta modernando l'economia, le infrastrutture. Tra l'altro in questo periodo può ricevere oltre a questo 228 milioni proprio per i migranti, ma non accetta di prenderne. L'Ungheria, il saldo è attivo per 5,6 miliardi nel periodo preso in considerazione, pari al 5,64%. Anche loro potrebbero avere 95 milioni di fondi europei in più per gestire i profughi e non lo fanno. La Repubblica Ceca ha un attivo di 3 miliardi. Poi siamo andati a vedere i ricollocamenti italiani. In questo momento, perché il dato è aggiornato proprio a lunedì e quindi a ieri, i ricollocati dall'Italia sono 6.500 e le persone che stanno per essere ricollocate sono 700. Quasi tutte sono andate in Germania, le persone partite dall'Italia, 2.500 su 6.500. Segue la Norvegia, la Finlandia e la Svizzera. Questi paesi dove sono andate le persone minori o adulti che sono partiti dall'Italia per essere ricollocati. In attesa di approvazione di questa domanda, 1.300 persone. La cosa che trovavamo interessante di questa statistica che riguarda solo l'Italia è che i potenziali ulteriori beneficiari della procedura sono solo 700 migranti, il che vuol dire che la maggior parte delle persone migranti in Italia sono migranti economici e pochi di loro hanno le caratteristiche per essere ricollocati. Ti ringrazio, grazie a Valentina Furlanetto per questo punto e anche per questa analisi sui numeri che ci hai dato. Abbiamo parlato di politica con il Movimento 5 Stelle, tra l'altro è notizia di poco fa che il Movimento 5 Stelle andrà al ballottaggio ad Asti, perché sono stati ricontati i voti, lo ha annunciato lo stesso candidato del Movimento 5 Stelle, Massimo Cerruti, al termine del riconteggio in tribunale. Gli sono stati attribuiti 50 voti in più e tanto è bastato a superare Angela Motta del Partito Democratico e quindi appunto andare al ballottaggio con il centrodestra. Si diceva, siamo all'indomani delle amministrative e parla il segretario del PD Renzi. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, Matteo Renzi rimanda le elezioni, il voto subito, spiega, lo chiedevano Lega e Movimento 5 Stelle, io non l'ho mai chiesto, ho sempre detto che la data delle elezioni sarebbe stata oggetto di discussione con il Presidente del Consiglio Gentiloni e poi prerogativa del Presidente della Repubblica. Questa è la tesi quindi del segretario PD, che precisa il tema della data delle elezioni non è comunque quello che ha fatto rompere il patto sulla legge elettorale, il patto l'ha rotto Beppe Grillo. Si guarda poi a Lottaggi, Renzi apre a Giuliano Pisapia ma non a Massimo D'Alema, l'ipotesi di dialogare con D'Alema mi sembra negata dalla realtà, se ne sono andati perché non volevano dialogare e non nessuno li ha cacciati. Dopo il voto delle comunali e il flop del Movimento 5 Stelle, Grillo rilancia e ricorda che il Movimento non è morto, la crescita dei 5 Stelle c'è, lenta ma inesorabile, e si punta dritto eletti al governo. Soddisfatto ma prudente Berlusconi dopo l'alleanza con Salvini sul centrodestra, il Cavaliere però dice no all'egemonia della Lega e avverte: non è tornato il bipolarismo. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito anche per questo aggiornamento. La questione delle banche venete di questa mattina, un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel quale si riferisce di dichiarazioni del ministro Pier Carlo Padoan, il quale dice che la soluzione è prossima e che le interlocuzioni con le istituzioni europee sono incoraggianti. Il ministro ribadisce che la soluzione non contemplerà alcuna forma di bail-in e che obbligazionisti senior depositanti saranno in ogni caso pienamente garantiti, facendo intendere evidentemente, e qua aggiungiamo noi, che così non è per gli obbligazionisti junior, ossia i possessori di subordinate, le obbligazioni subordinate e gli azionisti evidentemente. Per quanto riguarda la situazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, la Commissione Europea, il meccanismo di supervisione e le autorità italiane lavorano fianco a fianco e sono in corso contatti costruttivi, lo fa sapere un portavoce della Commissione Europea. C'è un giro di consigli di amministrazione previsto nelle prossime ore, appunto, delle due banche venete. Dovrebbe emergere qualche notizia, appunto, nelle prossime ore. Veniamo alla cronaca: le centinaia di formiche che assediano una paziente costretta in un letto d'ospedale. L'immagine che richiama situazioni da terzo mondo, ma che è accaduta a Napoli in un reparto dell'ospedale San Paolo. A diffondere le foto, a denunciare il caso di malasanità, è stato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. La signora era in cura per uno shock settico post frattura e sotto antibiotici. Questa mattina sul tema è intervenuto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che è tra l'altro andato in visita all'ospedale. Sentiamo. Mi hanno spiegato che si determina questo problema quando vi sono pazienti che vengono alimentati in modo artificiale con delle sacche nutrizionali ricche di glucosio e di zuccheri. E questo può determinare un problema nel giro di 5 minuti. Quindi la situazione, il fatto è stato questo. Fra le 6 e le 6.30 di mattina di venerdì, mentre erano in corso i prelievi da parte dei 3 infermieri che erano in tutto il reparto, si è verificato questo episodio. Ovviamente questo episodio non si deve più verificare. E quindi sono in corso i lavori per la sanificazione, stanza per stanza. La signora in questione ovviamente è arrivata, che era quasi in fin di vita, è stata curata. Al di là di questo episodio c'è il nucleo ispettivo dell'ASL che sta verificando i fatti, sta raccogliendo le dichiarazioni di tutti i protagonisti, dal primario del reparto agli infermieri che erano in servizio, ma diciamo il fatto è quello che le ho descritto. E su questo torneremo tra un attimo più avanti nel nostro giro per l'Italia. Veniamo alle norme antidegrado nelle città italiane. Ieri abbiamo parlato di quelle di Roma, ebbene non c'è solamente Roma. Anche quest'estate i sindaci delle principali città italiane sono alle prese con una nuova ondata di divieti per fermare quelli che sono stati soprannominati i nuovi barbari. L'eterno dilemma è come continuare a far affluire i turisti e l'appetibile flusso di denaro che ne consegue senza che questo comporti degrado e devastazioni. L'ultimo provvedimento in ordine di tempo è quello di ieri della prima cittadina di Roma, Virginia Raggi, che vieta di consumare cibi o bevande, bagnarsi, versare liquidi o gettare qualsiasi oggetto tranne le monetine, arrampicarsi o sedersi sui marmi delle fontane più preziose della città eterna. La sanzione prevista per i trasgressori va da 40 a 240 euro. In precedenza già il sindaco di Firenze Nardella aveva deciso di far spruzzare acqua sui sagrati delle chiese e sui marciapiedi delle strade del centro cittadino per evitare i bivacchi dei turisti all'ora di pranzo. A Milano è stato varato il piano estivo sempre per la prevenzione dei bivacchi, specie nei parchi e nei giardini, che verranno presidiati da apposite guardie ecologiche, ed è di ieri la multa da 150 euro inflitta a 4 ragazzi che si sono tuffati nella Darsena. Nel porto di Milano valgono infatti le regole dei navigli Grande e Pavese, ma la guerra ai bivacchi ha spinto alcuni sindaci, come quello di Grosseto, Bergamo e Treviso, a togliere persino le panchine nelle zone più frequentate. Anche i famosi fidanzatini di Peinei, immortalati seduti su una panchina dal noto disegnatore francese, non saprebbero più dove sedersi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport, iniziando con una notizia che forse farà contento qualche tifoso juventino. La star portoghese del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, è stato denunciato per presunta frode fiscale dalla sezione reati economici della Procura di Madrid. Lo ha riferito la stampa spagnola. Il calciatore madrilista è accusato di 4 reati fiscali e di non aver pagato all'Agenzia delle Entrate 14 milioni di euro fra il 2011 e il 2014, lo riferisce El Mundo Online. Certo, questo non sposta di un millimetro la Champions League, però magari qualche soddisfazione a qualcuno la darà. Parliamo di basket però e di NBA, perché ieri è stato assegnato il titolo. Sul tetto del mondo, i Golden State Warriors vincono gara 5 delle Finals NBA e conquistano l'anello, il secondo negli ultimi 3 anni, il quinto della loro storia. 129 a 120 in gara 5 giocata ad Oakland, determinante ancora una volta Kevin Durant, MVP delle Finals con 39 punti, ma Golden State dice grazie anche a un grande André Iguodala, autore di una straordinaria difesa e anche di 20 punti. L'onore degli armi va ai Cleveland Cavs, guidati da un fantastico LeBron James, anche in gara 5, anche in questa sconfitta straordinaria. Il prescelto con 41 punti, 13 rimbalzi e 8 assist. Stavolta non sono bastati in quello che era la terza finale consecutiva tra Warriors e Cavs, ma l'appuntamento per la rivincita è già dato per il prossimo anno. Intanto applauso agli Warriors campioni e l'onore degli armi ai Cleveland Caps. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo il quadro dunque dall'NBA. Noi andiamo a chiudere questa prima parte della trasmissione, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Giro per l'Italia che ci porterà, come abbiamo detto, a Napoli per tornare a parlare di quello che abbiamo visto in ospedale, anche quelle foto che abbiamo visto tutti, e poi torneremo sulle amministrative con due storie, due piccole storie. Un sindaco che diventa sindaco di un comune che prima non esisteva e che deve costruire tutto da zero, e un sindaco che in realtà è un vice sindaco. Ne parliamo tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta video anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, così come sulla pagina Facebook di Radio 24. Bene, iniziamo a questo punto il nostro giro per l'Italia, dopo aver parlato nella prima parte della trasmissione del bilancio demografico italiano, di Virginia Raggi che scrive al prefetto e chiede basta immigrati a Roma, del post amministrative, della soluzione vicina a quel che dice il ministro Padoan per le banche venete, poi di basket con l'NBA. Abbiamo parlato anche di calcio, dell'evasione fiscale di Ronaldo, ma non se la prendano i tifosi juventini, non stiamo prendendo in giro i tifosi juventini. Era così, una battuta, come dire, una vendetta postuma per i tifosi juventini, l'indagine per l'evasione fiscale su Ronaldo, figuriamoci, una grandissima squadra e figuriamoci se ci mettiamo a prenderla in giro da questi microfoni, qualcun altro lo fa, è sua responsabilità. Prima di andare a parlare del Veneto che ha deciso di fare ricorso contro la reintroduzione dell'obbligo vaccinale, c'è una piccola storia dalle elezioni amministrative che vi vogliamo raccontare. Forse qualcosa avrete già visto in rete, perché questo comizio è diventato abbastanza famoso. Siamo a Ruoti e siamo in Basilicata, dove è stata eletta sindaco Anna Maria Scalise. Anna Maria Scalise però è stata introdotta in questo modo. Il precedente sindaco si chiama Angelo Salinardi. Convoca comizio di piazza a Ruoti e dice sostanzialmente: guardate, voi votate per lei, ma tanto il sindaco lo faccio io. Siamo arrivati alla fine del mio secondo mandato da sindaco. Si è presentata l'occasione di ripresentare una donna. Io vi dico le cose così, molto terra terra come stanno, e 2 o 3 consiglieri se ne sarebbero andati. Optiamo per un'altra ragazza, altri 2 o 3 consiglieri se ne volevano andare. Optiamo per De Leonardis. 2 o 3 consiglieri volevano andare via. È stata una catena continua a che siamo arrivati alla determinazione di mettere una persona esterna, ma una gran signora, qui alla mia destra. Ma per dividerci i compiti. Io continuerò a fare il sindaco, di fatto vice sindaco, ma sindaco di fatto per le pratiche di Ruoti, per la gestione di Ruoti. La svolgerò io come ho fatto in questi 10 anni. No, ma davvero, ma vi rendete conto? Ma io, se fossi Anna Maria Scalise, appena eletta sindaco di Ruoti, direi: sai che c'è? Allora, innanzitutto non ti faccio vice sindaco, oppure molto semplicemente mi dimetto e mando a commissariamento il comune. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, buongiorno, come sta? Buongiorno a tutti. Bene, grazie. Veniva da dire che quasi oggi col Movimento 5 Stelle vi siete scambiati i ruoli, perché abbiamo perché la Raggi che scrive al prefetto e dice basta migranti, mentre Grillo dice non vogliamo più i rom che chiedono l'elemosina alle metropolitane, e lei che si scaglia contro i vaccini facendo ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto del governo. No, adesso si scherza, lei non è contro i vaccini, vero? No, ma posso fare una battuta? Ci siamo dimenticati che la Raggi governa Roma da un anno. Di solito a noi fanno tutti il pelo contro pelo nei primi 100 giorni, 3 mesi, 4 mesi, 5. È un anno, effettivamente me l'ha ricordato lei adesso, è un anno. Sì, oggi tra l'altro. Guardi, noi no, guardi. Il Veneto non ha l'obbligo vaccinale, io governo questa regione da 7 anni senza obbligo vaccinale, e le dico che abbiamo scelto di proporre una nuova formula, togliere l'obbligo e parlare con i genitori. Prova ne sia che siamo gli unici ad avere un'anagrafe vaccinale digitale, con una piattaforma informatica, un software che funziona, quindi in tempo reale conosciamo bene i nostri dati, abbiamo un buon rapporto con il Ministero della Sanità, e guarda caso, nonostante non ci sia l'obbligo vaccinale, come accade peraltro in 15 paesi europei, tipo Germania, Gran Bretagna, eccetera, da noi il 92,6% dei bimbi sono vaccinati. È il dato di quest'ultimo semestre della nostra anagrafe vaccinale. Quindi non sono contro il vaccino, ma sono per porre una questione. La questione è che non è più l'era degli obblighi, ma l'era dei dialoghi, no? Dobbiamo parlare con questi genitori. Zaia, però lei parla dalla sua posizione, che è una posizione, come diceva lei, di una regione che ha una copertura vaccinale di quanto? Il 92,6%, mi pare che abbia detto, no? Certo che però ci sono regioni nelle quali la copertura è più bassa del 90%, a volte ampiamente più bassa del 90%, e in quei casi forse in qualche modo bisognerà intervenire, no? Ma guardi, i dati sono sufficientemente alti per non essere nell'ambito della soglia pericolosa in tutte le regioni, sostanzialmente. Il vero tema è un altro, che i genitori pongono delle questioni rispetto ad esempio al poter avere un programma vaccinale dedicato e fatto ad hoc, cosa che si può fare. Molte mamme dicono ma perché dobbiamo arrivare a 12 vaccini? Altre mamme magari assumono informazioni dai social media e vorrebbero avere delle risposte. Io penso che il dialogo sia fondamentale. Sa qual è la vera preoccupazione? Che questa azione, che è un'azione coercitiva importante, che ci parla di giudice, che convoca i genitori e poi le multe fra l'altro fino a 7.500 euro, che allora chi può pagare la multa non vaccina il figlio, chi non la può pagare è obbligato a vaccinarlo. Beh, tutte queste robe noi abbiamo lì ormai la percezione che incentiveranno l'abbandono ai vaccini. Quindi otterranno l'effetto opposto. E questa non è una condizione da poco per una regione come il Veneto, che c'è una cosa che non ho capito. Lei è a favore dei vaccini oppure no? O è una di quelle persone che quasi non si esprime? Non riesco a capire cosa. Guardi, quelli che non si esprimono non stanno di casa qui da noi. Io ho sempre detto, fra l'altro, io non ho una posizione politica, perché adesso c'è il decreto sulle proteste. La nostra posizione è chiara. Io non ho nulla contro i vaccini. Quando li ho studiati all'università, il prof ci diceva è la scelta di una comunità di convivere con una malattia, no? Tu inietti questo virus attenuato che produce anticorpi. Io non faccio campagne contro i vaccini. Dico che questa modalità sicuramente porterà all'abbandono. Zaia, però dire non ho nulla contro i vaccini non è la stessa cosa di dire sono a favore dei vaccini. No, guardi, glielo ripeto nuovamente. Se lei mi chiede se io sono a favore dei vaccini, io dico che se avessi un figlio lo vaccinerei, punto. Ma questo l'ho detto in tempi non sospetti. Il vero problema, le ripeto, che una regione modello come il Veneto, che non ha l'obbligo vaccinale come altri 15 paesi in Europa, perché sembra quasi che sia una roba fuori dalla storia, dal mondo, non avere l'obbligo vaccinale, dimostra che si possono avere accessi ai vaccini molto alti in percentuale senza avere l'obbligo vaccinale. Sì, Appunto, però il problema è che in Italia questo non avviene, Zaia. Beh, allora chiediamoci perché non avviene, perché non c'è informazione, perché non ci sono i servizi ai genitori e alle famiglie degni di questo nome, perché ci sputtaniamo un sacco di soldi per finanziare regioni nella sanità che l'unica cosa che sanno fare è fare buchi. Abbiamo 3 regioni, 4 regioni che hanno 5 miliardi di buco della sanità e che esportano ammalati. Questi sono i veri problemi, non quello di mettere multe ai genitori. Allora, Zaia, dunque, ricorso della Regione Veneto, questo è quello che è stato presentato dal Veneto alla Corte Costituzionale contro questo decreto. Vedremo come andrà a finire dal punto di vista giudiziario. Intanto la ringrazio, grazie a Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, per essere stato con noi. E noi restiamo in temi sanitari per parlare di quello che è successo a Napoli. Beh, ormai la cosa l'avete vista, avete visto anche le immagini, è stata ampiamente raccontata. Abbiamo fatto sentire poco fa la voce del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, centinaia di formiche che assediano una paziente costretta in un letto d'ospedale, è un reparto dell'ospedale San Paolo. Noi siamo in linea con Ciro Carbone, che è presidente di PASVI, è il collegio interprovinciale degli infermieri professionali di Napoli. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E mi scusi per l'attesa. Senta, qua... Allora, come sempre in questi casi, no? Si punta l'attenzione su una generica mala sanità, si dice è colpa dei tagli, sicuramente qualche elemento di questo tipo ci sarà. Dall'altra parte però forse è mancata anche un po' di vigilanza sulla paziente, no, Carbone? Certo, assolutamente. Siamo in sintonia. Non so se ha avuto la possibilità di vedere il comunicato che abbiamo fatto stamattina come Collegio Pace di Napoli. Noi abbiamo chiaramente puntato l'attenzione anche sui nostri colleghi, insomma, è impossibile che una donna che sia a letto non sia quella mattina o quel pomeriggio non sia stata, come dire, accudita da operatori di supporto, da infermieri. È impossibile che una coordinatrice non controlli eventualmente chi deve fare queste cose, è impossibile che un primario è così a salire in tutta la scala gerarchica che hanno chiaramente delle responsabilità. Noi, come dire, come gruppo professionale è un episodio che ci ha sconvolti, diciamo così, e laddove ci sono e sicuramente ci saranno responsabilità da parte dei nostri istituti, ci comporteremo nel momento in cui verranno chiaramente queste responsabilità identificate con nome e cognomi, faremo la nostra parte. Tanto più Carbone, che da quello che ha riferito De Luca, da quello che è stato raccontato, non era la prima volta che una cosa di questo genere avveniva, quindi insomma un minimo di attenzione in più bisogna mettercela, presumibilmente, oltre a denunciare, perché è chiaro, uno denuncia, poi però deve metterci anche l'attenzione giusta perché un episodio di questo genere non avvenga, no? Certo, avere delle formiche in casa già è strano, voglio dire, no, averle in una stanza di degenza in un ospedale è pericoloso, significa che c'è una catena di vigilanza che manca, voglio dire, certamente lì le responsabilità non possono essere additate agli infermieri né agli operatori di supporto, che io sono certo che avranno segnalato a più riprese alla direzione medica del presidio, sì, questa invasione di formiche, perché non è normale, voglio dire, no? Certo, Carbone, però diciamo così, l'omessa vigilanza, quella sì che si può imputare invece agli infermieri, alla catena di comando, cioè i medici, il primario, eccetera, eccetera. Assolutamente, io come le ho detto poc'anzi, come dire, gli infermieri stanno vicino ai pazienti, in quel caso non sono stati vicini a quella paziente, e di questo voglio dire ne siamo coscienti, quindi quando parlo di infermieri parlo anche chiaramente di operatori sociosanitari, non solo di infermieri, qualcosa lì è venuto meno. La ringrazio, grazie Ciro Carbone, grazie. Presidente di PASVI, Collegio Interprovinciale Infermieri Professionali di Napoli, che ci ha aiutato a sottolineare una cosa che in questo paese non è scontata, ossia il fatto che la responsabilità non va sempre solo scaricata verso l'alto, ma ognuno si deve prendere la sua fetta, nella fattispecie gli infermieri si prenderanno la loro, il primario si prenderà la sua e chi ha eventualmente effettuato tagli, i responsabili politici evidentemente si prenderanno la loro per loro conto. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi la storia, appunto una piccola storia che arriva dal Piemonte, la storia di un comune che elegge per la prima volta il suo sindaco e che deve ripartire da zero, nel senso 20 anni fa esisteva, poi è diventata una frazione e adesso tocca ricostruire tutto, non ci sono le strutture, non ci sono i dipendenti, non c'è niente. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: prosegue il calo delle nascite, il calo dei residenti in Italia per il secondo anno, meno di 500.000 di bambini venuti alla luce. La sindaca di Roma Virginia Raggi scrive al prefetto: basta immigrati a Roma, moratoria sugli arrivi. E Grillo in un post sul blog chiede di fermare chi chiede l'elemosina in metropolitana. Renzi: non ho mai parlato di voto anticipato alle urne nel 2018. I 5 Stelle sono stati sconfitti per il segretario del PD, ma non sono morti. Sui vaccini, lo avete sentito, la Regione Veneto presenta ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto legge che impone l'obbligo. La coercizione crea abbandono, dice il presidente della Regione Luca Zaia. E la soluzione sarebbe vicina per le banche venete, fa sapere il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, così come sulla pagina Facebook di Radio 24. Siamo in attesa di collegarci, se ci riusciremo, con il sindaco di Mappano, come si dice, un piccolo comune in Piemonte, nel quale il quale va di fatto al voto per la prima volta. Ci sono tutte le strutture da ricostruire. Una storia, una piccola storia delle amministrative che ci aveva incuriosito. Solo un chiarimento all'ascoltatore che ci scrive: poco fa abbiamo intervistato, come avete sentito, Ciro Carbone, che è presidente dell'IPASV, il collegio interprovinciale infermieri professionali di Napoli, per parlare della vicenda di questa donna ricoperta di formiche mentre era in trattamento. Giusto per essere chiari, qua non è che si sta attribuendo solamente la responsabilità agli infermieri, non abbiamo detto che è colpa degli infermieri. Di certo abbiamo detto, come ci ha riferito Ciro Carbone, che da parte degli infermieri, presumibilmente anche da parte dei medici, c'è stato probabilmente, ma questo sarà da verificare, perché su questo tra l'altro ha aperto anche un'indagine la procura, oltre ad esserci gli ispettori ministeriali e gli ispettori della ASL, su questo tema bisognerà accertare la responsabilità, però è presumibile che una parte della responsabilità sia anche degli operatori medici che dovevano vigilare su questa paziente. E quindi il tema non è tanto è colpa degli infermieri, non è colpa degli infermieri, è che ognuno si deve prendere la sua fetta di responsabilità, che è una cosa che, come si diceva, in questo paese avviene piuttosto di rado. Poi che ci siano anche delle colpe politiche per lo stato della sanità napoletana, ragazzi, ne abbiamo parlato talmente tanto spesso che non so più che dirvi su questo tema. Ci saranno anche delle responsabilità di De Luca, vedremo se ci saranno anche delle responsabilità di De Luca. Quello che vi abbiamo fatto sentire di De Luca poco fa è semplicemente la ricostruzione dei fatti per come l'ha ottenuta lui. In altre dichiarazioni nell'arco della mattinata ha parlato proprio di disastro della sanità campana, ed è esattamente questo disastro quello sul quale lui dovrebbe mettere mano. Ormai è a un anno dall'elezione a presidente della Campania, vedremo, lo giudicherete da gli ascoltatori napoletani, gli ascoltatori campani lo giudicheranno evidentemente a fine mandato. Nel frattempo ovviamente terremo gli occhi anche su tutto questo. A proposito di sanità e a proposito di Napoli, c'è anche un'inchiesta, perché non manca nemmeno questo, un'inchiesta penale che riguarda una serie di centri diagnostici. Sentiamo. Eseguivano volutamente male TAC e risonanze per tuffare il servizio sanitario nazionale e ottenere rimborsi per prestazioni sanitarie ad alto costo. Per questo sono scattate le manette per 5 amministratori e 7 responsabili di altrettanti centri di diagnostica convenzionati con sede nelle province di Napoli e Caserta. Nell'indagine dei carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli sono coinvolti anche un medico di base ed un impiegato dell'ASL Napoli 2 Nord. I reati contestati a vario titolo vanno dall'associazione a delinquere finalizzata alla truffa, al servizio sanitario nazionale, al riciclaggio, al falso materiale commesso da pubblico ufficiale. In alcuni casi gli indagati avrebbero fatto risultare prestazioni effettuate per pazienti del tutto ignari. E intanto a Napoli sono state avviate le indagini anche degli ispettori ministeriali e i NAS inviati dal Ministero della Salute dopo la denuncia di un consigliere regionale, Francesco Emilio Borbelli, che ha testimoniato con tanto di foto la presenza di formiche nel letto di una paziente ricoverata nell'ospedale San Paolo. In mattinata il direttore sanitario Vito Rago è stato convocato in regione, è stata anche avviata un'indagine interna all'ospedale San Paolo. Laura Vigiano, Radio 24, Sole 24 Ore, Napoli. E va bene, eccoci qua, noi adesso andiamo a chiudere, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, e poi Mario Platero con il suo America 24, ci risentiamo alla fine per i saluti.